Loro vengono a casa nostra a chiederci di toglierci i nostri crocifissi o di rinunciare al nostro altare, al nostro